Siamo qua, siamo a Top Cars, via Nuovo Poggioreale 56 a Napoli. E Top Car è un negozio che specializza sul cellulare, la vendita di cellulare e anche le autoinstallazioni. E hanno un sacco di offerte adesso sotto Natale. E con me c'è un signore, il gestore del negozio. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Mariano. Allora Mariano, tu mi stavi dicendo prima, mi stavi raccontando di tutti questi belle offerti. Vuoi dire un po' agli ascoltatori di Radio Tour che possono comprare qua al Top Car? Sì, ci sono grosse offerte team in corso. C'è l'attivazione della carta auguri che costa solo 10.000 lire e dà la possibilità di inviare 100 messaggi gratuiti e di effettuare un'ora di conversazione gratis su tutti i cellulari team. Poi c'è per chi acquista adesso una team card, c'è in 100.000 lire il costo della team card. Possono inviare 100.000 lire di traffico, possono comunicare per 100.000 lire di traffico. E l'apparecchio quanto costa? Sì, adesso abbiamo una grossa promozione noi qui alla Top Car. Abbiamo il cellulare Philips AV a sole 199.000 lire. Praticamente c'è una team card con 100.000 lire di traffico e 100 messaggi gratis. Perfetto, grazie Mariano. Allora, volevo comunicare che Top Car non si trova soltanto a via Nuova Poggioreale 56, però anche gli altri due punti di vendita. Sì, infatti siamo presenti anche a viale Colli Aminei numero 357 e in via Riviera di Chiaia numero 3. Ok, grazie Mariano, a tanti auguri. Allora, su Radio Tour, The Moving Station, adesso the radio dei grandi eventi, ascoltiamo The Love Connection with The Bomb. Sempre su via Nuovo Poggioreale numero 56 presso il Top Car, il centro team e pure il centro installazione delle antifurti della macchina. Allora, prima abbiamo parlato di tutte le belle offerte che fanno qua per Natale. Allora, puoi comprare un telefono a solo 199.000 lire, che comprende il team card con 100.000 lire di traffico e ben 100 sms gratis. Oppure, se già hai una scheda team, puoi anche avere 10 per 10.000 lire, 100 sms gratis e un'ora di conversazione in omaggio. E inoltre, per ogni cellulare che compri, quelli del Top Car vi regalano un bel cofinetto di dolci e cioccolati e torrancini da portare a casa per Natale. Però ragazzi, questo non è tutto, perché non lo so se voi avete mai sentito un furto di un'auto. Io sto soffrendo sempre di quello che è successo a me, mannaggia, che sono venuto qua a Top Car, al centro installazione, a fare il bel sistema satellitare. Qua stanno proprio installando sotto i miei occhi adesso, e quindi se viene rubato la macchina, loro riescono a rintracciarlo in un paio di secondi e recuperarlo. Questo è una cosa molto molto positiva. Quindi, che vuoi di più? C'è anche il Stream TV che puoi abbonarti qua. Proprio il Top Car su via Nuova Poggioreale è il posto di andare a fare il shopping questo Natale. E con questo vi lascio su Radio Tour, the radio of the grandi eventi. Questo è Lorenzo with File Not Found.